Domenica ero ad un mercatino vintage. Avete presente, no? I mercatini vintage. Beh, a me piace frugare fra le bancarelle nei mercatini vintage. È più discreto che nei cassonetti. Dunque, ero lì che frugavo fra tutto quel vintage quando ad un certo punto vedo fra un vecchio mangiadischi rosso e un paio di scarpe bicolore un biglietto da 100 euro. 100 euro sane! Era da tempo che non le vedevo le 100 euro. Non mi ricordavo neanche più che erano verdi le 100 euro. Avrei voluto comprarmele, ma neanche a dirlo costavano troppo. 300 euro? 300 euro per 100 euro! Per carità, 100 euro, buttale via. Però, 300 euro! Ecco. I soldi. Ve li ricordate i soldi? Quanti ricordi, eh? Che si mettevano nel portafoglio, oppure in tasca. Vi ricordate? Che poi i soldi erano di due tipi. C'erano quelli di carta e quelli di metallo, le monete. Che con i soldi ci si compravano le cose. Vi ricordate? Che poi i soldi, se ne davi di più, avevi diritto al resto, che erano sempre soldi, ma di meno. Che poi i soldi te li davano se facevi quella cosa, come si chiamava? Oddio, un lapsus, aspetta, lavoro, ecco sì, lavoro! Tu lavoravi e loro in cambio ti davano i soldi, vi ricordate? Che forte che era, no? Che a dirlo oggi sembra una cosa... Invece all'epoca tutti proprio... Scusate, che quando parlo di soldi io divento nostalgico. Sarà l'età. Io ho 28 anni. Eh sì, sono nato nel 1984 e faccio parte di quella generazione che vivrà peggio delle precedenti. Pur campando di più, oltre il danno la beffa, non avrò mai un lavoro sicuro né uno stipendio fisso e non avrò mai una pensione. Se permettete, mi piange un po' il culo. Quando vai ad un colloquio di lavoro, la prima cosa che ti dicono è non ci stanno i soldi. Che è come andare all'Oktoberfest e scoprire che è finita la birra. I rinnovi contrattuali prevedono più ore di lavoro, ma meno retribuite. Ti offrono stage non pagati, praticantati a pagamento tuo, oppure ti chiedono prestazioni in amicizia. Beh, visto che siamo amici, almeno prestami un po' di soldi, no? E che cazzo di fine hanno fatto i soldi? Cos'è? Sono finiti? Erano biodegradabili? Sono spariti? Nessuno ne ha più? Ci avete fatto caso? Siamo diventati tutti dei pezzenti? Ma come abbiamo fatto a ridurci così? Questo un tempo era un paese ricco. Fino a 20 anni fa in Italia c'era talmente tanto benessere che gli italiani le monete le tiravano addosso ai politici. Adesso invece ma chi se lo può più permettere? Ma soprattutto, ma chi c'ha più le monete? Scusate lo sfogo. È che a me piacevano i soldi. Io ci sono cresciuto con il mito dei soldi. Io ci credevo. Solo adesso ho capito quanto sia sciocco e irrazionale credere nel Dio denaro. Nel senso che il denaro, proprio come Dio, è diventato invisibile. Quando lo vedi è un miracolo. Si idolatrano sue rappresentazioni, tipo la carta di credito e il codice IBAN, nella fede che vi siano soldi al di là. Ma la verità è che il denaro non esiste. Il mio personal banker mi dice di continuare ad aver fede, che se risparmio, investo in buone azioni e pago l'8 per 1000 di interesse, io sarò salvato. E andrò in un paradiso fiscale il giorno del crack universale, ma io non ci credo più. Non vado neanche più in banca. Ho smesso di andarci dopo lo scandalo dei cassieri pedofili. Il denaro non esiste. Il denaro è una superstizione, una leggenda. Il denaro se lo sono inventato gli uomini per esorcizzare la paura del debito. Perché il debito è l'ineluttabile destino di ogni essere umano. Nel debito eravamo e nel debito ritorneremo. E l'unico modo per estinguere questo debito è estinguerci, noi. E questo Monti lo sa. Il dollaro è debole, l'euro è debole, e anch'io non mi sento tanto bene.